Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Mercoledì 18 settembre 2013, le 22:06 minuti, ben trovati sulle frequenze di Blu Radio Veneto. L'appuntamento è quello clou, classico, insomma, del mercoledì sera con Rock Wave Live, appuntamento con ospiti dal vivo nei nostri studi che propongono la propria musica, giusto Maurizio? Esattamente, stasera da Sant'Arcangelo di Romagna, è così? Sant'Arcangelo di Romagna. Dimmi com'è? Sant'Arcangelo di Romagna. Perfetto, era un po' complicato. In ogni caso, è uno scioglilingue. Esattamente, in Romagna possiamo dire questo. Sì, esatto. Avete fatto buon viaggio, sì? Sì. Bene, vi vedo pimpanti, questo è importante. Sinful Ira, allora, un gruppo interessante che nasce, dunque facciamo i conti, nel 2007 all'incirca, vero Baldo? Sì, vero. No, ci presentiamo, esatto, prima, esatto, ci presentiamo. Esatto, le due ragazze, che sono le vocaliste. Ciao, io sono Leira, la voce. E Laila. Benissimo, poi Baldo, il chitarrista. E Filippo, l'organista, il tastierista. Esatto. Allora, dimmi Baldo. Allora, il gruppo esisteva già da 2 anni prima, però aveva un altro nome. Esattamente, si chiamava Rising Shadow. Esattamente, Shadow del 2005 praticamente. Del 2005. All'incirca. Questa ombra. Questa ombra. Era il primo nome che ci era venuto in mente, poi abbiamo avuto necessità di cambiarlo. E inizialmente il progetto era nato come cover band. E quindi di chi? Di Evanescence, Nightwish, Within Temptation la coil, e Lacuna Coil. Un po' tutto il gothic metal. E gothic metal, sì. Esattamente. Andavamo all'epoca, molto. Diciamo, erano appena venuti fuori, insomma. Beh, Lacuna Coil sì, sicuramente. Sì. Evanescence un po' prima. Già li conoscevo, infatti erano 2 o 3 anni che cercavo di mettere su una band su questo stile. Ho capito. Dopo, come sempre accade a una band giovane, cambiano degli elementi perché chi inizio nasce un po' tra amici, certo. Insomma con lo spirito del divertimento. Così band che nasce dai garage esatto, praticamente. Esatto, dalle cantine, meglio cantine. Suoniamo nel garage. Meglio le cantine. Nel garage. Va bene, ok, suonate, meglio le cantine. Meglio le cantine. Ok, si beve meglio. Esatto. C'erano salami appesi, no? Tipo, esatto. Ogni santo capitava. E quindi i primi personaggi che poi nel tempo hanno cambiato idea, hanno deciso di non continuare seriamente con la musica, ma che la vivevano in una maniera più per divertimento, per svago, quindi la formazione è cambiata fino ad arrivare finalmente da qualche anno a questa formazione più o meno stabile di 6 elementi. Oggi, stasera siete in 4 però. Stasera siamo in 4 perché il batterista e il bassista per motivi personali non riescono ad esserci. Il bassista, famiglia, che salutiamo, ciao Ema. Ciao Ema, che è mio fratello. Ah, perfetto. Il fratello della vocalist. Un bacio ai bimbi e alla Lu. Neo padre esatto, neo padre di due. Bene, auguri a lui, complimenti. Alessandro Carichini, che è il batterista. Alessandro Carichini, il nostro greppo, che spero grande che ti stia ascoltando. Beh, via internet sicuramente. Ma in realtà non ci stavamo nella macchina, quindi... Sì, poi più di 5 diciamo la verità. La roba e tutto quanto. E poi per l'acustico sono inutili, quindi... Ah, sono inutili per l'acustico, esatto. Abbiamo detto... Siete inutili per l'acustico. Ci bisogna. Ok, allora dimmi Baldo. Sì. Allora, dicevamo, quando finalmente abbiamo avuto la formazione stabile, abbiamo finalmente, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto, ma potremmo cominciare a creare qualcosa di nostro. Uh-huh. E quindi è partita l'idea di creare questo primo album e poi successivamente l'idea di farlo, di fare un concept, perché eravamo venuti a conoscenza di una storia molto interessante. E ci siamo detti di tanti gruppi che fanno concept su storie inventate, fantastiche, invece raccontare una cosa reale. Perché tra speranza e paura? È perché il personaggio compie tutto un percorso di rinascita da una brutta situazione che gli accade, e quindi nel momento in cui uno si deve rimettere in gioco nuovamente è combattuto tra la speranza di ritrovare una vita felice e la paura di ricommettere di nuovo lo stesso sbaglio. Ah, ho capito. Inciampare nuovamente. Questa è la ragione di Between Hope and Fear, praticamente. Esatto. Benissimo. Album che avete inciso, album che è uscito praticamente alla fine del 2011, inizio del 2012. È uscito a giugno esattamente del 2012, praticamente. E per l'etichetta Illogic di Brescia, salutiamo il nostro boss Stefano. Bene, salutiamo. Oscar. Si sta sentendo. E Oscar. E abbiamo registrato, e invece è stato registrato a aprile, maggio, giugno del 2011 al Pre-Studio di Bologna, che dal grande Roberto Priori, che salutiamo. Roberto Ciao Priori. Mitico Robby, se ci senti. Il cinghiale è sempre con noi. È stata un'esperienza veramente bella. Era la prima volta per molti di noi che entravamo in studio. Per me era la prima volta. In assoluto. In particolare sì, per sì, la cantante, appunto. Ero agitatissima all'inizio, è stato proprio... ero tanto agitata. Dopo però, col tempo, sono riuscita a trovare una nuova me, proprio perché lì ho sperimentato proprio con la voce. Come è nata un'altra persona, sono riuscita appunto a far nascere queste altre tipologie di voce, quindi io sono contentissima e ringrazio ancora Roberto. Benissimo, allora facciamo una cosa di questo genere, caro Sergio, cosa dici? Sentiamo il primo pezzo che abbiamo scelto dalla scaletta del disco. Primi due pezzi, sì, l'intro e il sì, pezzo l'intro successivo. Che preannuncia la storia con la narrazione, poi il primo vero pezzo che è attaccato quasi in un'unica traccia, insomma. Benissimo, lo sentiamo e poi lo yes, spieghiamo, cosa dici Paolo? Sì, perfetto. Ok, quindi Sound of Life e True Lies. Yes. Queste erano le prime due tracce del disco degli ospiti che abbiamo questa sera, i Sinful Ira, Maurizio. Esatto, Sinful Ira, perché ho chiesto prima, Ira, no, Ira si Ira. Pronuncia assolutamente. Dal latino, bene. Spieghiamo, visto che lei, ecco, hai fatto l'introduzione, adesso spiego. Vuoi spiegarlo? Sì. Devi avvicinarti al microfono però. Ok, va bene. Ok. Allora, Laila sei te, giusto? Sì, esatto. Non ho sbagliato. Allora. Sì, bravo. Sono bravissima. È un po' difficile, ma ho capito. Dopo due o tre volte, dimmi allora. Va bene, va bene. Dunque, l'intro praticamente è una sorta di riflessione. Ecco, così, va bene. Sì, proprio diciamo che io interpreto appunto la voce della coscienza e quindi è questa voce della coscienza che si fa delle domande, appunto, qual è il significato della vita, insomma, abbastanza filosofico, poi pian piano arriva anche nello specifico proprio dei problemi di ogni giorno, insomma, quindi i tradimenti, le paure, l'amore, le amicizie, la quotidianità, la vita reale, la sì, vita esatto, reale, cioè proprio introduce alla tematica dell'album, insomma. Dell'album, il cosiddetto concept album. Perché esatto, avete scelto un concept album? Perché Baldo aveva questa idea, è venuta in mente, l'ha sviluppata, e così Baldo. Sì. Ma la vera, essere venuti a conoscenza di questa storia. Che è una storia vera? Sì, sì. Storia vera di una persona che conosciamo, che ovviamente non ha mai voluto essere rivelato. Beh, certamente, chiaro. E che praticamente dopo aver subito un tradimento ha fatto tutto un percorso di rinascita, diciamo, per tornare di nuovo a credere nell'amore, nell'amicizia, nella vita praticamente, nella vita, esatto, anche, nella vita reale. In un pezzo addirittura sì, si parla che questa persona tenta il suicidio, quindi certo, è arrivato a un picco di fondo per poi ritornare su e poi non mancheranno i colpi di scena, insomma, è stata era teatrale già di suo. Poteva essere messo a teatro, esatto, questo. Un'idea, sì, un'idea, infatti, questa. Noi abbiamo infatti dovuto, cioè non abbiamo inventato praticamente niente, abbiamo teatralizzato un po' con delle abbiamo immagini, abbiamo ricamato un po' di musica. Esatto, abbiamo ricamato un po' anche a livello di testo, abbiamo quindi era fondamentale fare un concept perché era fondamentale, non sì, era un discorso concepibile, spiegabile in una sola canzone, quindi ovviamente. Musicalmente, visto che molti critici hanno scritto, hanno parlato di Gotti, hanno parlato di prog, hanno parlato di rock sinfonico, questo pezzo, Baldo e Filo, forse l'avete scritto voi due musicalmente. Sì, oh, diciamo che fondamentalmente il processo è questo. Io quando sono entrato nella band qualche anno fa, non mi ricordo bene quanti. 2010, Filo, 2010. Non abbiamo il suggeritore. Abbiamo la mente storica. Esatto. No, per le date, sì. Abbiamo il gobbo per queste cose. Come me. E siccome lui aveva già scritto tutti i brani nella loro interezza, quindi la struttura, l'armonia, anche i testi, io praticamente ho dovuto semplicemente poi mica tanto, ho dovuto arrangiare quello che era il mio strumento, la tastiera. Quindi sì, diciamo che l'abbiamo scritto insieme, ma fondamentalmente io sono arrivato che già la pappa era quasi pronta, ho dovuto semplicemente farcirla con... Quindi fondamentalmente tu chiedevi, no, di tutte queste influenze no, di cui si parla. In questo si parla della critica, io ho letto le critiche vostre, sono tutte molto positive. I critici sono stati veramente soddisfatti del vostro disco, un disco di esordio praticamente. Infatti, assolutamente. Siamo molto soddisfatti anche noi di questa. Che sia piaciuto, insomma. Sì, è piaciuto assolutamente. Questa è una cosa positiva. Era un disco, era un disco rischioso come idea. Certo, perché un concept è sempre un disco rischioso per una band emergente. Esatto. C'è poco da fare. E anche il fatto appunto di scegliere di seguire musicalmente la narrazione, quindi anche rischiando di passare da pezzi molto calmi, quasi pop, per arrivare a pezzi molto agitati, molto cattivo. Sì, la traccia 11 che poi sentiremo, la famosa traccia 11, traccia 11 che è proprio esplosiva, esplosiva. Esatto, perché... è strano, ma è vero, è la traccia quasi finale del disco. Infatti, hai scelto un finale molto duro, molto forte. Esatto, perché c'è il colpo di scena, poi quando parleremo bene arriveremo a quel punto. Esatto. Sì. Quindi per quanto riguardava l'intro e poi True Lies che abbiamo sentito, c'è prima la narrazione di Laura che rappresenta la voce della coscienza del personaggio e poi c'è tutta True Lies che viene cantata da Leira e ci sono anche... Quella voce forte, Leira. Quella voce forte, possente. Perché qui si narra il tradimento. Lì scopre che questo personaggio è stato tradito. Ecco, capito. Scopre, quindi c'è un motivo. Sì. Scopre di essere stato tradito. E quindi ci sono tutti i due parlati che ci sono nell'arco della canzone, sono un momento di riflessione proprio interiore, si può immaginare questa persona seduta nella propria stanza nel buio e poi c'è le strofe dove lui parla come rivolto alla persona che l'ha tradito, mentre invece il ritornello, che ha una sonorità più allegra, è perché lui praticamente ricorda le parole che gli diceva questa persona per rassicurarlo. Ho capito. Io sarò sempre con te, fidati di me, capito? Ho capito. E infatti tra ritornello e poi strofa ricade tutto nella... Quindi capito perché è il nome True Lies, sì, no? Esattamente. Tutte queste bugie che gli vengono raccontate. Quindi la sonorità viene da sé, quando si ha da bisogna parlare di un qualche avvenimento, di una certa sensazione, non stiamo molto a pensare a questo brano lo facciamo più rock, questo più prog, no, più questo lo facciamo secondo l'emotività del testo, l'emotività che dà il testo. Sì, sì, sì, sì. A proposito di emotività, suoniamo, sono le 22:24, assolutamente in diretta, vero Sergio, cosa dici? Sempre suonare. Posso fare solo una piccola parentesi? Sì, dobbiamo salutare. Ci stanno ascoltando dalla Sardegna, saluto Sara, Ale, Davide e Isabella. Ciao. Grande saluto, è loro che se la stanno spassando. Un dalla Sardegna, insomma. Yes. Loro sono in vacanza, però vi sentono. C'è mia sorella, la cantante degli Oops. Ecco, quindi una famiglia allargata. Gruppone esatto. Degli Oops, sì. Perfetto. Cosa suoniamo? Cosa iniziamo questa cavalcata fino alle 24? Hope. Hope, la numero 8 del disco. Sì, c'è una cosa da dire. Hope è quella traccia che noi abbiamo scelto assieme al nostro direttore artistico Alberto Prisco, perché secondo noi è una bella traccia, una traccia che dava un senso all'opera rock, possiamo dirla un'opera rock, concept album. Abbiamo scelto questa traccia, adesso la facciamo live, assolutamente dal vivo, in acustico, vero Baldo? Perfetto. Ok. Giving in to despair is not the way to face my Blu Radio Veneto. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. E bravi i nostri Sinful Ira, la loro prima dal vivo su Blu Radio Veneto. Sì, bravi per l'impasto vocale, due voci femminili da un certo fascino, un gruppo. Abbiamo messo la chitarrista a fare doppia voce. Cioè, lei è la chitarrista scatenata stasera fa la doppia voce. Scatenata! Assolutamente. In questa occasione sì. Sì, perché è una formazione originale, due chitarre, esatto. Un basso, una batteria. È una cosa molto semplice, mica molto. Due chitarre, non è una cosa. E due fratelli. E due fratelli. due chitarre. Una cosa molto bella, due chitarre. Di cui una chitarrista, una ragazza. Non è tanto semplice, non si trova facilmente una ragazza che suona la chitarra. No. Di solito fa la vocalist. In questo caso fa tutte e due le cose. C'è un brano in cui canta anche un ritornello, ecco. Revenge of Mind. Esatto. Io non mi ricordo mai i titoli. Sì, sì, canta esattamente. Questa è una, caro Filippo, è una ballata questa, fondamentalmente una ballata. Certo, con l'introduzione che tu fai, Baldo, con la chitarra acustica all'inizio. Qua l'hai fatta molto più leggera, nel disco un po' più pesante. Un po' più la sua voce è più strong, più dura. Nonostante c'è la hope, la speranza. Esatto. Però è dura lo stesso, secondo me. Cosa dici? Sì. Sì? Lo sapete che io sono di poche parole, io canto ma non basta. Parlo. Il bottone. È una speranza un po' durita, insomma, praticamente. Esatto. C'è questa speranza, però la voce è un po' dura perché ovviamente pensa a quanto è stato deluso e tradito in passato. Quindi c'è questa cattiveria nella voce lo stesso. Esattamente, c'è questa cattiveria. Speranza, ma ancora un po' li girano, diciamo. Esatto. I soldoni. E riassunto proprio questo. I soldoni. Perché questa canzone qui è in un punto, fa il ponte, diciamo, tra due brani. È l'ottavo pezzo, esatto, quindi un pezzo qua... Un po' dopo la metà del disco, esatto. Quindi fa il ponte. Rappresenta l'inizio appunto della rinascita, infatti di qui il titolo. Io voglio sapere musicalmente come l'hai inventata Baldo e Filo. Non so se Baldo e Filo solamente o anche gli altri praticamente. Musicalmente, parlo del punto di vista musicale, perché dal punto di vista dei testi lo abbiamo capito. Sì, dal punto di vista musicale. Ah, ma musicalmente io semplicemente dicevo il filo, di che parte della storia dovevo parlare. Qui dovevo parlare del momento in cui lui per la prima volta rincontra una nuova persona dopo che è stata una rinascita a livello di amore, perché prima si parla anche delle amicizie. Certo. Qui per la prima volta incontra e ha un primo contatto con questa nuova persona e quindi c'è tutta la fase di passaggio dalla depressione alla nuova fiducia nel domani, cioè riporre fiducia nell'amore dove invece prima l'idea di partire in acustico anche nel disco, comunque di chitarra clean, sì, diciamo chiaro. Era perché volevamo comunque spezzare rispetto ai brani precedenti che finivano tutti elettrici abbastanza pesanti. Cattivi, il brano prima in particolare era molto potente, My Friend era bello potente, sì, che esatto. Ha pensato. Quindi qui diciamo che lui finalmente si riammorbidisce e quindi dovevamo iniziare con un acustico. Però comunque, per far capire che ancora c'era dibattito dentro se stesso, allora appena parte il pezzo subito ritorna la chitarra elettrica. Certo, certo. E quindi c'è questa alternanza, c'è anche una pausa, un bridge a metà pezzo di nuovo in acustico. Però a me è piaciuta, a noi ad Alberto è piaciuta perché sì, c'è... Questa interruzione e questa alternanza tra l'acustico e l'elettrico, ma all'inizio era acustico e dava un inizio di ballata, poi la ballata si è allargata considerevolmente, è diventata una ballata per modo di dire, poi è ritornata ballata, cioè questo è molto dinamico, è molto dinamico, esattamente, esatto, proprio perché il personaggio avendo molta confusione in testa noi dovevamo renderlo anche musicalmente quindi... in sei sul palco come lo rendete un pezzo simile? Qua siamo in quattro in acustico. È un pezzo simile, lo rendiamo che... Ci sono strumenti elettrici sul palco, sì, chiaramente. Ma abbiamo cioè, nel mio caso... La tua sorella, chitarrista, come si comporta dal vivo? Oddio. Lei diciamo che si occupa della parte, per così dire, di mattoni. Diciamo che lei interviene quando il gioco si fa duro. Sì, sono un muratore, insomma. Quindi nel momento in cui c'è da fare un pezzo clean, io faccio la mia e parte. Spiega ai nostri ascoltatori che cosa vuol dire pezzo clean. Ecco. In soldoni, abbiamo parlato di soldoni. Bisognerebbe dare per scontato che tutti sappiamo che cos'è un suono distorto e un suono clean. Distorto possiamo immaginarlo. Quindi il pulito, il pulito cosa vuol dire un pacco dire con sei persone? Che anche una chitarra elettrica, anche se è una chitarra elettrica, suona in modalità acustica. Ecco, ecco, quello volevo arrivare a quello. Suono più che ricorda la chitarra classica. Bisogna farlo. Quindi lei fa il clean, fa suono pulito. No, io lui. Tu fai suono io pulito. Sono la parte dolce. No, no, io sono il muratore della band. Quindi il primo pezzo acustico lo faccio io con la chitarra elettrica, che ha un simulatore da chitarra acustica per rendere il suono. E poi nel momento in cui parte io ritorno al suono distorto e si aggiunge anche lei. Bello, interessante. Interviene molto, alla muraglia. Molto interessante, molto interessante. Muraglia come c'è una tua concittadina non proprio, una volta suonava il basso, era Caterina Caselli, suonava il basso, erano delle prime ragazze che suonavano il basso. Ah, non sapevo che suonava. E suonava il basso in un gruppo, alla grande suonava il basso, Poi ha fatto altre cose, non proprio per suonare il basso, però ha cominciato con il basso, chiaramente. Ma pensate, quante robe ci sì, sono cose che si sanno, lei è stata chi ha lanciato Francesco Guccini è stata lei. In una famosa trasmissione Rai dell'epoca, è stata lei a lanciare, era una talent scout già all'inizio, lei scopriva gli amici intorno, praticamente. Francesco Lucidi era un amico. Beh, ritornando a te, quindi musicalmente sei dura, musicalmente, cioè sei una che dai, mentre il tuo fratello è il più tenero musicalmente, più tenero musicalmente. La panna e il cioccolato, sì. Sono due ruoli prestabiliti, definiti in una band di sei persone, ottimo, interessante. Diciamo, una band giovane, dobbiamo ricordare, cari ascoltatori, questa è una band giovane, non è una band che ha tanti anni dietro le spalle, non ne ha tanti, ne ha pochi fondamentalmente. Il debutto, diciamo. Questo è un album di debutto, come abbiamo detto, un album concept album, è già stata una roba coraggiosa, decisamente coraggiosa. Sì. Ed è stata premiata dalla critica, bisogna dirlo, ribadirlo. Fino adesso è andata molto bene, diciamo che è andata anche meglio di quanto io, che le ho composto, sperassi, perché speravo che andasse bene, ma avere tutte queste recensioni positive, tutte positive, assolutamente positive. Più che altro è stato capito anche il messaggio, cosa che ci chiedevamo, esatto. Ma passerà mai questo messaggio? Era abbastanza contorta come situazione, però anche da quello che ci dici tu, no? Parlando dei brani e da quello che abbiamo letto dalle altre recensioni, è comunque trapelato, no? Che il messaggio era arrivato, certo, che non erano stati presi come brani fine a se stessi, non era stato esatto fine a se stessi, c'era un collegamento, un liaison che uno prima di scrivere la recensione avesse l'interesse di capire la storia, di addentrarsi e anche di capire il filo musicale oltre che il filo dei testi. Certo, certo. A proposito di filo, adesso sentiamo un altro pezzo, vero? Filo è un altro. Sì, sei Filippo. Filo lui. Lo chiamiamo Filo, nome d'arte. Un altro pezzo, Sergio, che traccia abbiamo scelto adesso? Avete scelto la numero 5, Revenge of Mind. Un altro pezzo che abbiamo citato prima, adesso lo sentiamo e poi lo allarghiamo. Sentiamo anche la Laura cantare. Esattamente, ecco. Sentiamo anche lei. Poi lo discutete. Certo. Ah, perfetto. Thank you. Ci vanno giù mica male questi giovani, questi giovani, esattamente. Non so se hai notato, Sergio, tutti su quattro, tre hanno una maglietta. Eh sì. E Filo, il nostro tastierista, non ce l'ha. È nudo. Il nostro scapestrato. Devi salutare qualcuno? Allora, io personalmente sì. La delegazione di Gemmano, saluto Michele, ciao, bacino. Miau. Vabbè, anche per conto di Laura, saluto la nostra famiglia che sicuramente sta ascoltando, mio babbo Maurizio e mia mamma Egle. E la Jenny. E il nostro cagnolino Jenny, che non credo gliene freghi niente del brocco, però chi se ne frega. E la mia amorosa Elisabetta che stasera sicuramente... Ciao Betta. Benissimo, parliamo allora del pezzo che ha due o tre chiavi di lettura. Innanzitutto c'è un po' di oriente dentro. Esatto. Orientaleggiante, sì. Un inizio forse gotico, se mi hai consentito l'espressione, sì. E questo oriente che è dentro. E poi la finale con la tastiera di Filippo, che suona un po' chitarristica. Esatto. Come tastiera, un po' di chitarra, non c'è, però è una tastiera molto velocizzata. Sì, in questo queste tre chiavi di lettura musicali, perché? Perché la tematica è importante. Esatto. Questo qui è il brano più cattivo, questo è il punto in cui il personaggio è molto più arrabbiato in assoluto. Ed è molto piaciuto la critica questo pezzo. Sì, bene. Sì, esattamente. No, no, per la cattiveria musicale, chiaramente. Sì, qui c'è il momento di rabbia estrema, qui il personaggio medita vendetta. Mm. Cioè, dopo abbiamo saltato due brani nell'album, sì. Da True Lies a questo. E nel frattempo c'era stata la fase di depressione e adesso c'è la fase di rabbia. Il primo risveglio dopo la depressione è una sensazione di rabbia e quindi lui pensa di farsi giustizia da solo eliminando i due personaggi, la persona che l'ha tradito, insomma, che l'ha tradito e l'amante, è l'amico, ecco. Esatto. E quindi qui c'è tutto un avvicinamento alle due persone, come si può immaginare, uno proprio che pedina i due personaggi. E quindi questo fatto a me personalmente questa sonorità mi dava l'idea di uno che 4-4 di pedinamento, sì, di una persona arrabbiata, tutta nascosta, che rancorosa, segue, diciamo. Esatto, rancorosa. Esattamente questo. Nel momento in cui arriva il ritornello, che c'è la presenza della voce di Laila, sì, che fa il ritornello, è perché, a lei, e appunto in quel momento la coscienza parla al personaggio, gli dice fermati, non farlo, perché non ti porterà niente. Faccio il grillo parlante. C'è il grillo parlante. Laila fa il ritornello e Leira fa una voce molto potente, quasi malata di blues, sporca di blues. Non so se sei d'accordo. Certo, sporca nel senso positivo del termine. Sì, sì. Per appunto. Per questa vendetta, per questo, per far capire. Blues lo porta a vendetta, però la voce mi sembrava molto potente. Cioè, io la faccio carica così. Sono contenta se è piaciuta. Sì, anzi, vi ringrazio. Proprio per dare anche delle emozioni diverse, dal senso di rabbia, di aggressività. Esatto. Cioè, come tutte le varie parti, sia tastiere, chitarre, tutto, seguono l'andamento dell'umore del personaggio. Anche la voce, a maggior ragione, la voce l'abbiamo. Deve rispecchiare. È stato difficile per te. Sì, si capisse. È un'attrice. Non è stato facile perché oltre a cantare ha dovuto interpretare. Devi interpretare. Come ho detto all'inizio, sì. Proprio perché per me è stata una cosa nuova. Poi mi sono lasciata andare, è stato bellissimo, è emozionante, è bello, molto. Solo l'inizio, poi è venuto da sé, proprio perché anche ti cali anche tu dentro la parte alla fine. Quante prove avete fatto per fare un pezzo simile? Perché era anche vocalmente era difficile. Perché noi prima di andare in studio abbiamo fatto delle serate nella di nostra prova. Sala prove, dove ci trovavamo con i pezzi, diciamo, noi avevamo registrato tutti i pezzi in modalità promo a casa mia, con i nostri mezzi, e facciamo varie prove a fargli cantare sopra. E dire per vedere che risultato parte, dava. Qui bisogna, qui, anche live rendevano. Qui devi essere arrabbiata perché lui è incavolato nero. Quindi. E la funzione del batterista in questo pezzo, che è straordinariamente importante, questo stop and go continuo. Oltre che tenere il tempo, esattamente. Beh, sì, comunque serve a enfatizzare. Cioè, anche qui, come è un po' una cosa che caratterizza anche i nostri brani, ci sono alti e bassi. Stacchi e riprese. Esatto, momenti riflessivi e momenti più aggressivi. E più in faccia, diciamo, e chiaramente anche una batteria così aggressiva come in questo brano, poi non più di tanto altri brani, ad esempio come Fatal Temptation, è fondamentale per trasmettere ovviamente la rabbia, l'aggressività, la forza, perché comunque non è una cosa da dire sottovoce. Sì, e non dobbiamo dimenticare il bassista è il fulcro di una band rock. Se non c'è il basso è proprio il trascinamento di tutto, che di solito viene preso in giro perché non si sente, ma però vuol dire si sente un orecchio attento, se ne accorge, no? Esattamente. No, no, infatti il ruolo di Ema, poi in questo brano è uno di, cioè, gli abbiamo lasciato anche lo spazio nel per mezzo solo, dove fa una specie di parte solista. Pix lo chiamate, Pix. Sì, esatto. È un nome d'arte. Un nome che sì, sì, si porta dietro da anni. Non so se ci sta ascoltando, ma lo salutiamo, è mio fratello. Sì, sì, perfetto. Detto, forse detto, non è. No, mi saluta. Rimarchiamo. Mi sta ascoltando e dice, ma questa non mi saluta. Io lo dico perché testimoni tutti. Rimarchiamo, è una famiglia allargata di musicisti, sì, è una sì, bella cosa, bellissima. Dimmi allora, volevi dire? Sì, no, volevo dire... La funzione del basso, parlando. Sì, la funzione del basso, ovviamente molte volte fa lo sporco lavoro, sta nelle retrovie, quindi anche per far vedere che lui c'era, abbiamo pensato nei vari brani di lasciare comunque almeno un piccolo momento per ogni strumento. Per cosa che sua, accade abbastanza spesso nel nostro disco, ci sono 3-4 brani in cui c'è un piccolo momento dedicato al basso, cui fare un micro a dice solo... la sua. Qualche, comunque una parte solista cantabile più che A proposito di questo, c'è un piccolo momento in un live che fate, un qualsiasi pezzo, c'è un piccolo momento in cui ogni strumento ha un piccolo momento suo nell'insieme del brano? Di solito no, è una cosa che non usate piace fare perché fondamentalmente per snaturate il pezzo, perché esatto, perché diciamo che il concept è un discorso, sono tutti brani collegati, e inserire a metà di un disco, in una rappresentazione live, una parte solista fine a se stessa, per che spesso viene presa come esatto esibizionismo del musicista, non ci interessa far vedere che siamo bravi a suonare. Ho capito, ho capito. Diciamo che è il musicista al servizio della musica e non viceversa. Per esempio, anche appunto le parti soliste che abbiamo messo in questo CD sono nei vari brani più o meno complesse, secondo anche loro di cui devono parlare. Perché in True Lies era un solo malinconico, non tanto difficile tecnicamente, ma doveva continuare la rappresentazione straccia lacrime, mentre in Revenge of Mind, come abbiamo sentito, parlavi tu, no, di una solo tastiera molto veloce, molto, anche proprio perché si parla di rabbia, di vendetta. E tu mentre il pezzo andava mi avevi detto una cosa di Leira, il discorso della voce impostata in una certa maniera in un determinato punto del pezzo. Sì, in certi punti abbiamo scelto, insomma, un'effettistica sulla voce, l'effetto radio, diciamo, no? Tagliando gli alti e i bassi, lasciando questo un po' come se uscisse da un megafono, no? È una scelta, diciamo, più musicale che artistica, eccetera, eccetera, perché in certi punti è cioè arricchisce, no? Crea una sonorità particolare che ci piaceva molto, abbiamo deciso di inserirla. C'è una piccola frase che questa voce fuori campo che dice appunto che la tua vendetta non porterà niente di buono. In questa piccola frase abbiamo fatto questo cambio di musica. Perché è il momento in cui la voce della coscienza ha già finito di parlare nel ritornello. Certo. E in questo momento entra lei, proprio lei stessa, come se si guardasse conto allo specchio, e quindi è la sua stessa voce che dice l'ultima parte prima di decidere di non vendicarsi, insomma. Quindi quanto, cari ascoltatori, quanto è complicato è fare un pezzo, non è mica semplice, così psicologico, è molto complesso, molte cose vengono naturali alla sì fine, certo, ascoltando anche tanta musica uno, diciamo, fa proprie certe sonorità e li certi viene passaggi naturale, anche esatto viene molto naturale spesso. Bene, naturale viene a suonare un'altra volta, che ecco, pezzo adesso faremo? My Friend. Va bene, ok, facciamo quello. Okay. 22:50, tutto in diretta, Fall is mine. Blu Radio Veneto. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Caldo? Sì, si stanno mettendo le cuffie, si stanno rimettendo le cuffie. E fa caldo, diceva Sergio. No, è tutto dal vivo, anche rimettersi le cuffie e riprendere le cuffie. Nota tecnica, date un'occhiatina al jack dei microfoni, per favore. Perché mi sa che forse è il caso di rifare la canzone più tardi, perché... ad un certo punto, no, ad un certo punto andava e veniva molto a singhiozzo. Perché la musica la sentivo molto bene, però la voce andava veramente a singhiozzo di tutte e due. Beh, dopo la rifacciamo al limite, dai. Infatti, facciamola anche se Paganini non ripete, stavolta Paganini ripete. Va bene, facciamo così. Ma noi siamo contenti, Va bene, anche noi, anche noi. Parliamo di questo My Friend, questa amicizia. Allora, un pezzo lento, nel disco è un pezzo abbastanza lento, un po' elettronico, se dici leggermente. Sì, leggermente nel disco, sì, c'è una scelta di sonorità, diciamo, elettroniche, quasi tra virgolette possiamo dire. Sì, sì, no, ci sono. Guarda, meno sinfonico, diciamo, meno sinfonico, meno gothic classico, ecco, più sperimentale. Ma cosa vuol dire gothic classico? Adesso diciamo, sto scherzando chiaramente, però questo, cioè, parlo dello stereotipo, etichetta, esatto, è questa etichetta che viene parlo data. Dello stereotipo che si dà di solito alla band gothic metal, certo, no? Parlando di Nightwish, sì, certo, Lacuna Coil, che fanno un largo uso. Lacuna Coil ha fatto grande successo negli Stati Uniti con questo, certo, genere qua. Non prettamente, un po' pop tra virgolette, praticamente. Sì, pop più underground, esatto, cioè, certe sonorità più oscure, più dark. Sì, diciamo che c'è molta contaminazione da parte di altri generi, come dicevamo prima, no? Prog, pop, rock, eccetera, eccetera. Ma tutto deriva dal prog, secondo te, Filo? Deriva tutto dal prog, secondo te, Filo? Ma no, sinceramente... O dal metal, forse dal metal. Ma sì, più diciamo che è un disco che si può definire no, metal. Non il tuo, il tuo. Tu dispari dei Lacuna Coil. No? Esattamente, esattamente. Sì, no, chiaro, no. Per loro, insomma, di prog c'è poco. È più... Esattamente. No, io parlavo di My Friend, forse. Sì. Sì, no, continuiamo a parlare di me. No, era un motivo per ritornare a parlare di My Friend. Comunque c'è una contaminazione da parte di sonorità, insomma c'è stata una ricerca di suono, non ci siamo fermati al classico cliché, anzi è una cosa che cerchiamo di evitare, io soprattutto cerco di evitare nella scelta di suoni tastieristici per dare anche una ventata di aria fresca ai brani, se no rischiavano di, appunto, avendo un sound troppo conforme, si rischiava magari di annoiare anche l'ascoltatore. Esattamente. Quindi trovare sempre la stessa cosa. Esatto, è fondamentale creare anche una situazione, un'ambientazione diversa, per esprimere anche meglio, ovviamente non è che sono suoni scelti a caso, questa la facciamo così, questa è quella. No, è tutto pensato anche ai fini del concept album. Anche ambientazione diversa, questo duetto femminile che è molto interessante, secondo me, dà una colorazione. Sì, certo. Poi tu hai una voce sempre molto potente, molto rock in alcuni momenti. A cioè, differenza di quando parla fuori. Esatto, esattamente. Così, tranquillissima. Io sono timida quando devo parlare. Quando canto riesco a dar tutta me stessa. Però non devo è la prima parlare, che dice così, Sì, mi faccio coraggio. No, perché quando devo parlare sono proprio timidissima. Quando canto mi sento proprio me stessa. Sì, hai una voce sono a mio agio solo quando canto io. Ah, perfetto. Hai una voce molto rock in alcuni momenti. Non dico che assomiglia a Janis Joplin, perché no, però molto rock, molto e senza drogarsi, magari. penso. assolutamente. Quel che ne sappiamo, molto profonda, molto cattiva nel senso positivo del termine. Forse il pezzo, il testo, come diceva, certo, Baldo, che porta questo. Cerchi sempre tu, mentre la coscienza cerca di alleviare, di rallentare l'impeto tuo. Bravo. La coscienza è così, cara coscienza. Cara coscienza, sì. Ormai il grillo parlante. Va bene. La coscienza o il grillo parlante ci può avvicinare. No? Sì. È una grande chitarrista, la ragazza qua, qui presente. Non ti ricordi il nome? Non mi ricordo. Grillo parlante va benissimo. Cercavo di girarla. Dovevi dire ste robe. Cara coscienza, la ragazza. Beh, insomma, la sorella dell'altro. Laila, va bene. Laila. No, l'abbiamo trovato. Laila. Perché è un po' particolare. Sì, ho scoperto che significa notte in arabo. Laila è un famoso pezzo anche di Eric Clapton. Sì, esatto. Te lo ricordi, no? Con i Derek and Dominos, lunghissimo, bellissimo. No, non se lo ricordo. No, no, no, me... è un po' come per i nomi, no? No. Ma Eric Clapton, no, lo conosci, chiaramente. Sì, sì, sì. Derek and Domino, cioè, me l'hanno fatto conoscere. Ah, te l'hanno fatto conoscere. Sì, sì, perché sì, tu sei una metallare. Esatto, eccola, io sono... Eccola, grazie, qua, te la ricordo. Esatto. No, io sono una metallare orribile. Cosa vuol dire metallare orribile? No, nel senso che di cultura musicale, sì, non ne ho tantissimissima, però diciamo mi sono concentrata soprattutto, insomma, nell'adolescenza, proprio ascolti. E beh, a proposito degli ascolti, non è ancora ora, vero Sergio? Fra qualche minuto ci sono gli ascolti, c'è un piccolo giochino. Oddio. Verso le 23 all'incirca. Piccolino, piccolino. Mi spavento. No, non c'è niente da spaventarsi. Lui dice sì, però. No, assolutamente. E adesso sentiamo un altro pezzo da disco. Sì. La scaletta, cosa hai scelto, Baldo? Ti ricordi, figlio? Filippo. Ok, pensiamo un attimo. Inside My Fears. Probabilmente sì, io che memoria... sì, sì, sì, sì, la numero 6. La numero memoria quella è veramente tremenda. Io. È veramente tremenda. La sentiamo così. Dopo escogitiamo qualche altra cosa da dire. A proposito, okay? Bisogna aver paura. Inside My Fears. Esatto, va bene, va bene. Ah, guarda un po'. Move on, my head to face my fear. 23 minuti, sempre con noi la presenza, insomma, dei Sinful Ira, gli ospiti di questa sera all'interno di Rock Wave Live. Appunto per questa serata abbiamo appena sentito la traccia numero 6 del loro primo disco, giusto? Inside My Fears. Caro Maurizio, c'è un pezzo molto potente, ma con chiave di lettura diverse. Hai notato la batteria? Sì. Prima si parlava di batteria. Esattamente, ho notato la batteria. Qui la batteria ha un ruolo... No, come sono io? Hai fatto anche te la batteria. più tardi del anche pezzo, la batteria. Sembra una batteria, non è proprio una batteria. Sì. Dimmi. Allora, qui la batteria è volutamente veloce. Diciamo che l'album in generale non è velocissimo. Questo qui invece è il pezzo più veloce, insieme a una parte di Fatal Temptation. Perché qui, parlando della paura, noi abbiamo voluto simulare il battito cardiaco accelerato e quindi per tutto il brano si sente... L'angoscia. Poi alla fine, il finale fai una chitarra percussiva alla fine, velocissima. Esatto, cioè, la solo, quello sì. volevo parlare della batteria. Sempre, ho capito. Sì, è tutto voluto che segua l'andamento veloce della batteria, anche la parte solista doveva essere veloce, raffica. Raffica, esattamente. Era necessario che facesse una cosa di ansiogeno, quasi, ansia, sì. Paura. Esatto, e tu qua canti, Baldo, è la prima volta, è l'unica volta nel disco che canti. Esatto, perché qui... Perché hanno deciso di proporti solo questo pezzo da cantare. Sì, era meglio così. meglio esagerare, se no la critica avrebbe fatto commenti diversi. No. È perché appunto nella scelta dei vari personaggi qui abbiamo voluto mettere una voce ancora più dura, quindi maschile si prestava meglio per questo scopo, perché qui rappresenta la paura, è come se la paura avesse una voce e parlasse il personaggio, e quindi ovviamente gli parla con tono di sfida, con minaccioso, e nelle strofe il personaggio dice di voler scappare da queste paure. Tant'è poi che c'è una parte, diciamo, una parte prima del finale della canzone, più soft, no? Più ambientazione, in cui cioè, il personaggio protagonista prende coscienza del fatto che no, basta, non cioè, è più prima... tempo di aver paura, no? Non sarò mai più spaventato, affronterò le mie esatto, paure. Affronterò le mie paure. Vengono prima elencate una ad una tutte queste paure, che erano angosce, e poi dopo faccio questa parte narrata dove gli elenco le paure, che è una cosa un po' particolare, insomma, fare un elenco di cose parlate all'interno di un brano. Sì, quasi con apatia, no? Esatto. Qualcosa di ipnotico. È anche una questione fisica di proporre un pezzo simile, molto veloce, ritmicamente veloce, sempre più potente da parte tua. Tu sei la vocalist. Non è mica una cosa semplicissima. No, però se appunto risulta, cioè se abbiamo nel risultato l'effetto che vogliamo ottenere, noi continuiamo con questa strada qua. Vale la pena. No, parlavo di questo pezzo soprattutto. Esatto, sì. Siamo molto contenti anche che abbiamo provato a sperimentare, perché alla fine sono esperienze che stiamo facendo, essendo il nostro primo CD, e quindi andremo avanti su questa linea qua. Certo, e poi una cosa che abbiamo notato mentre il pezzo andava, parlavamo che musicalmente il pezzo è costruito, almeno questo, anche gli altri, ma particolarmente questo pezzo, perché tu entri con la voce, devi entrare in una certa maniera e ti costruiscono intorno un trampolino di lancio praticamente. Certo, sì. L'effetto che dà, almeno. Sì, in particolare in questo brano, cioè, perché appunto deve creare questo ambiente di panico, quest'aria di... spaventosa tensione. Esatto. È il thriller del disco. Del disco. A proposito di thriller, facciamo quel solito giochetto, cosa dici? Aspetta. Dobbiamo si aspettare. È fatto vivo per Vie Traverse Emanuele, il nostro bassista. Ciao Emanuele. E vi fa presente che, insomma, vi sta ascoltando con attenzione un po' di gente, con Laura, Gemma, Nathan. Ciao. Cinzia, Alex, tutta Guido la e Laura. C'è un raduno. È un raduno. Famiglia Marconi. Ciao a tutti, allora. Pensa a te. Il raduno dei fan club. Ciao a tutti. A tutte le parentele, voglia. Moglie, figli, nipotini, tutti. bello, positivo. Grande Ema. Allora facciamo questo giochetto adesso. Adesso Sergio lancia il gioco. Beh, noi vogliamo sapere intorno alle 23 di ogni mercoledì, quando insomma appunto vengono i nostri amici gruppi a suonare nei nostri studi, vogliamo sapere da noi, da voi, da ogni componente, 3 o 5? E cosa dici, Sergio? Come 5? Esageriamo? Viene lunga? Viene lunga, beh proviamo, dai. 3, dai, iniziamo con 3. Filippo. I vostri 3 dischi... Anche per me, Perché io non... tre dischi che portereste in un'isola deserta. Devo partire io. No quindi. Compilation senza copiare gli altri poi. Ah ok, perfetto. Ah, tanto comincio io quindi. Esatto. Ah bravo. Ma copiata, hai l'esclusiva. No, no. Lui che ha più cultura deve partire per ultimo. Cultura, esatto. Per modo di dire. No vabbè, no, che no. Ascolto roba totalmente differente da quello che ascoltano loro, quindi andiamo sul tranquillo. E partirei con il primo sarebbe Burn the Sun degli Ark. Gruppo abbastanza pseudo sconosciuto, diciamo. No, lo so, sento qualcosina, ecco, non è conosco. È un disco molto. Secondo me è interessantissimo, molto molto molto bello artisticamente, grandi musicisti. Tra l'altro formato da ex turnisti di Malmsteen, che li mandò via come solito fare, li mandò via dalla formazione. Questi hanno detto: ah, va bene Malmsteen, vai a quel paese, noi facciamo un gruppo per i fatti nostri, e hanno fatto uno dei gruppi più belli del mondo. E, un altro disco sarebbe Be dei Penal Salvation, che è una metal opera, diciamo, sì, rock opera con una piccola orchestra, molto molto interessante. Sinfonica, leggermente. Sì, ma molto, leggermente, assolutamente. Esatto, è un disco a sé stante che vi consiglio di ascoltare. Hanno fatto anche un DVD live in cui c'è una rappresentazione teatrale, diciamo, di questo disco con proprio l'orchestra che lo suona insieme ai componenti dei Penal Salvation, quindi è anche un altro disco che vi consiglio. E il terzo disco mi risulta un po' difficile, ma mi verrebbe dire un disco degli 883, ma è una è una compilation e quindi non si può. Hai detto che me l'ero preparato. Cacchio, mai scegliato gli 883. C'è una bella, una bella differenza. C'è una bella differenza. Sì, perché però... lo ascolto sempre mentre do l'aspirapolvere a casa e quindi tanto non lo senti. Già no? L'aspirapolvere. Se dovessi dare l'aspirapolvere nell'isola deserta mi porterei gli anni degli 883, però siccome non si può porterei Isolate dei Circus Maximus, che è stato uno dei gruppi che mi piaceva. È uno dei miei gruppi preferiti di quando avevo 15-16 anni. E poi ci suonerò insieme, tra l'altro, tra una settimana. Facciamo un po' di pubblicità con l'altra mia band, gli Echo Time. Quindi sono molto contento. È un po' stato un po' a rivagare il passato. Cosa fai con l'altra band? Diciamo un prog metal, diciamo sullo stile sì, di Circus Maximus, DGM, Symphony X, insomma, quella roba là. Molto teatrale, diciamo. Che quello. Un po' spinto anche. Sì, abbastanza, abbastanza cattivo. Esattamente. Cioè, non troppo, però. Diciamo, sei sulla buona strada. Sì, è una metal opera anche quella. È una, diciamo, è come se fosse la colonna sonora di un film, ecco, fatta metal. Bene. Caro Baldo, sì. Ti avvicini al microfono, sì. E spari i tuoi dischi adesso. Ai miei dischi. Allora, partirei con Scenes from a Memory di Dream Theater. Già più normale, più umano rispetto a quelli di Alessio Filippo. Perché è stato il primo concept album che ho sentito, che ho potuto ascoltare, poi della mia band preferita. E diciamo che molto di quello che ho composto in questo album... Sì, difatti la critica qualche volta si avvicina ai tuoi pezzi, i vostri pezzi a Dream Theater. Diciamo che noi ci discostiamo molto tecnicamente, volutamente, perché loro fanno un metal prog molto di esibizione, sì, anche molto tecnico, mentre noi non ci interessava rendere quello. Diciamo che io ho preso spunto dalle loro parti melodiche, dove fanno sono bravissimi. Appunto, siccome nel momento in cui abbandonano la tecnica per concentrarsi sulle parti melodiche sono maestri, e lì ho avuto veramente tante ispirazioni, dei brani più lenti, da quelli con meno assoli, e quindi quell'album rappresenta di loro secondo me il punto massimo e che poi mi ha ispirato. Poi a sto punto, come secondo album dovrei dire Karma Code dei Lacuna Coil. Abbiamo già detto perché di Lacuna Coil, ma perché quell'album di Lacuna Coil? Quell'album perché ha rappresentato un cambio di sonorità. Sono d'accordo. Sono passati a suoni più americani. È vero, sì. A livello chitarristico, quantomeno, per quello che mi riguarda, io non ho. Ne sono qualcosa di classifiche americane, sono stato molto contento, esatto, di questo cambiamento. Esatto. Sì. E perché mi ha dato ispirazione anche loro, mi hanno dato ispirazione a livello sonoro per quello che riguardava la durezza delle chitarre, e in questo album qualcosa ho messo anche ispirato a quello. Ricordiamo che Lacuna Coil sono italiani, orgoglio italiano, esattamente, ben venga. E poi a voler mettere l'ultimo direi Fallen degli Evanescence, perché è l'album che mi ha avvicinato al gothic. Cioè, o meglio, è un gothic però da classifica. Esatto. Assolutamente. Loro, esatto. Diciamo che con la canzone Bring Me to Life, sentendola la prima volta, ho capito che volevo fare questo suonando. Sì, riusciti a portare il gothic in classifica. Diciamo, se prima sapevo che cosa mi piaceva ascoltare, quando ho sentito quella canzone ho capito cosa mi sarebbe piaciuto suonare. Certo, perfettamente. E quindi di lì ho avuto la strada delineata poi. Tocca a te. Lei ha detto che è andato giusto stavolta. Gli vanno, nel senso, vabbè. No, purtroppo. Io sinceramente vado fuori come sempre dagli schemi così. Io non so i titoli degli album. Avrei portato i Nightwish e gli Evanescence. Proprio perché con i Nightwish avrei potuto cantare la lirica, ovviamente quando c'era Taria. Certo. Perché mi esprimo anche con la lirica io. E gli Evanescence proprio per fare questa cosa di questo canto un po' più duro. E un altro, se mi permetto, sì. Bene, dura sì, però leggermente pop con gli Evanescence. Anche sì, ma io ascolto un po' tutti i generi, diciamo così. Non ho appunto, ecco, forse non avendo un mio genere, non essendo indirizzata, faccio anche per questo fatica a dire ho il mio album preferito. Io non ce l'ho, ascolto un po' di tutto. E per cui la terza entità musicale, abbiamo scelto quei due prima, e la terza entità? La terza io penso porterei Whitney Houston, che non c'entra niente, ma no, a me piace cantare, io sono partita con lei, con Celine Dion, adesso per dire, tutto un altro genere. Quindi farei proprio queste tre cose che sono gli opposti, si può dire. Certo, certo. Perché a me piace cantare di tutto. Bene, Laila, tocca a te adesso. Ti avvicini al microfono, perfetto. Sì, ok. Dunque, allora, diciamo che ho due album in particolare, che sono Blackbird degli Alter Bridge e The Long Road dei Nickelback. Nickelback, sì. Sì, io li adoro, soprattutto per le sonorità e proprio anche per le strutture melodiche, poi la voce di Chad che è meravigliosa. Sono stati sdoganati anche in Europa finalmente, cioè sì. Anche in Italia soprattutto, più che in Europa, in Italia. Esatto, esatto, infatti, perché rappresentano, insomma, un periodo molto bello della mia vita, quindi ho proprio un legame affettivo. Poi diciamo che l'album degli album, insomma, è Images and Words dei Dream Theater. È sempre i Dream Theater che girano, che sì, perché quando alleggiano. Mio fratello lo ascoltava a 16 anni, ne avevo 10 e elementari, io mi ricordo che ascoltavo col mio Walkman. Sono molto amati Another Day, anche, così. Sono molto amati anche in Italia i Dream Theater, moltissimo sì. Amati, se si può dire questo. Particolarmente più che nel paese d'origine loro, molto amati dalle nostre parti. Ogni volta che incidono un disco vanno subito in classifica. Si sa che le classifiche italiane hanno un peso relativo, però sono molto, soprattutto nei concerti live. Sold out immediatamente quando arrivano i Dream Theater, arene piene. Sì. I biglietti non si trovano mai, chiaramente. Beh, sono validi, molto interessanti. No, certo. Come giustamente tu hai detto, meglio dal vivo che succede. Sì, meglio dal vivo, sono d'accordo. Hanno dato una strada, come giustamente tu hai detto. Esatto. Assolutamente. Hanno aperto un mondo. Adesso abbiamo aperto il mondo loro e l'abbiamo chiuso musicalmente parlando. Adesso cosa facciamo? Suoniamo un altro pezzo. Dai. Ma sì, ecco. Che cosa? Suoniamo New Love. New Love, perfetto. Ah, un bellissimo pezzo. Adesso lo facciamo dal vivo. Okay. I Rock Wave Live. Cari ascoltatori, ero incerto noi, io ed Alberto Pisco, eravamo incerti di lanciare questo pezzo, Hope. Abbiamo scelto Hope, però questo è molto bello, molto intimista, è una grande ballata. Qualcuno ha scritto una ballata pop, sì, pop fino a un certo punto. La voce è molto ispirata. Che... questa canzone parla d'amore. Esattamente, si parla capiva, d'amore. Sì. Sono contenta io se viene riferito il messaggio. Sì, si capiva. Puoi parlare d'amore anche... è un po' più dolce. Anche così, no, per carità. Sì, abbiamo cercato di rendere i titoli anche molto immediati. Vabbè, New Love non mi sembra infraintendibile. Così se la ricordano. Sì, New chiaramente Love. Anche come arrangiamento era molto delicata, una bella chitarra iniziale, questo, acustica. Questo è il brano che arriva immediatamente dopo Hope. Esattamente. Cioè, in mezzo c'è quel passaggio di pianoforte da solo. E poi c'è questo brano. Quindi finalmente riapre le porte all'amore per il personaggio. Al quindi nuovo qui, amore, sì. La persona che aveva incontrato durante il brano Hope diventa la sua nuova compagna. Insomma, la parte quindi, tranquilla del disco, la parte esatto, tranquilla. La più ballad. Sì, è una ballad vera e propria. Qui c'è ovviamente anche il parlato fatto dal nostro bassista. Che salutiamo un'altra volta. Bravo Ema. Gliel'abbiamo fatta apposta. Cantare lui, leggere a lui, poiché si stava per sposare all'epoca. Quindi chi meglio di lui poteva fare una promessa d'amore. Esatto. L'unica voce che non c'è nel disco è la mia, insomma. Se possiamo dire una cosa... Meglio così, no? No, porta la maglia, giusto che non viene... Filippo stasera non porta la maglia, è vero, il gadget, esatto, quindi la maglia. Non hai diritto di voce. Esatto, possiamo dire che questo poteva anche essere, non so se lo sia, un singolo potenziale, assolutamente. Sì, eventualmente, sì. Eventualmente ci starebbe molto bene. Radiofonico. È molto radiofonico. Sì, è anche uno dei più corti, quindi è anche uno dei più bene. Corti, potrebbe andare bene, anche se la lunghezza, sai, qui nella nostra radio non ha valore. Qui no, però molte radio ti danno radio, sì, dei minutaggi e qui non devi sgarrare, quindi... In questo caso, dal vivo non esistono minutaggi, potete infatti aumentare a dismisura i pezzi, oppure abbiamo fatto quel discorso prima con Filippo. Aumentare a dismisura il pezzo può arrecare dei scompensi da eseguirlo anche a chi vi ascolta. Di solito cerchiamo di essere fedeli al disco, cioè, diciamo, l'obiettivo principale è la fedeltà al disco, perché poi comunque chi ti ascolta è abituato a sentirlo in quella maniera. E poi il disco è abbastanza recente, quindi esatto, quindi cerchiamo di rimanere, anche perché facciamo utilizzo di basi, il batterista suona col click, quindi sarebbe un po' problematico, diciamo, modificare. Però sì, ad esempio, le poche volte, mi sembra solo un paio di volte se non ero, in cui mi è capitato di fare l'intermezzo che c'è tra Hope e questo brano qua, in cui è praticamente una solo di piano, lì avevo tutta la calma del mondo, potevo andare avanti anche 6 ore, però sì, sì. A parte rari casi tipo questo, di solito ci atteniamo molto al minutaggio, alla durata. Poi una cosa interessante che i ragazzi mi hanno detto a microfono spento, che lo strumento acustico, il provare acustico è una cosa nuova, è una cosa che potrebbe avere uno sviluppo. Cosa dici, Filippo? Sì, ci siamo messi in gioco perché ci è capitato oltre stasera di andare comunque in altre radio in cui c'era questa richiesta di preparare brani acustici. Noi non sapevamo da che parte farci, ci siamo trovati un pomeriggio, abbiamo detto proviamo, cerchiamo di riarrangiarli, cioè, poi faremo anche Fatal Temptation con un arrangiamento un po' strano, un po' country. Fatal Temptation è il pezzo numero 11, durissimo. Quella suonerà proprio diversa. Esatto, quella sarà proprio una rivisitazione, mentre Hope e New Love sono molto simili, ovviamente ballad si prestano molto. Certo. Fatal Temptation sarà proprio una rivisitazione totale. Ci è passato per la mente di fare anche eventualmente live acustici. Il discorso dei live acustici può avere un futuro oppure ma no? Ci stiamo pensando seriamente, perché effettivamente i brani ci piacciono. Beh, no, a me a volte piacciono più versione acustica che versione cattiva, quindi potrebbe essere una buona idea portarli in locali, comunque anche magari locali più piccoli che non danno la possibilità di fare concerti. Chiaro, esattamente. A proposito di locali più piccoli, adesso diciamo dove non puoi distruggere i muri, arriva il Unplugged. Bravo. Dove non puoi distruggere i muri, giustamente. Diciamo che purtroppo noi veniamo da una zona dove si può distruggere i muri. È il liscio. Esatto. I muri si possono distruggere oppure no? I muri si potrebbero distruggere. È che molti gestori hanno paura perché la gente, tra virgolette, chiamiamola normale, il medio riminese, fugge a gambe levate di fronte a una chitarra. Allora, mercoledì scorso è stato qui con noi un gruppo che prendeva i testi di una canzone, mettiamo, e metteva la musica di un'altra, tipo Osta. Sabato pomeriggio di Baglioni con Smells Like Teen Spirit. Non mi dire. Grandissima. Grandissima. Provate sentire anche voi, mettete i vostri testi sul liscio. Potremmo fare un metal Romagna Mia. Le porte aperte. Esattamente. In casa vostra. Credevano, se perdo anche te, di Gianni Morandi, un Lot of Love di Led Zeppelin come musica. Ma dai. Sì, sì, Vicentini. Sì, erano Vicentini. Erano geniali, veramente. Romagna Mia su Merlin Manson. Ecco, siamo lì, più o meno. Come. Esattamente. Come concezione, sì. Mamma mia. Quindi cioè, ci sono delle difficoltà per suonare in, suonare in sei un locale. In sei e poi questo tipo di genere. Comunque è stato difficile ritagliarci il nostro spazio. Diciamo che più o meno adesso abbiamo raggiunto, siamo entrati nelle grazie di alcuni gestori, grazie al cielo, che hanno visto che comunque abbiamo un buon seguito e che quindi ci lasciano almeno due volte l'anno la possibilità di suonare, quindi mettendo insieme tutti questi locali riusciamo a dare un giro, ad avere un giro di una data al mese. Però ecco, nella Riviera non puoi pensare con questo genere, con una formazione da 6, di suonare più di così. Tra liscio e discoteca. Ma esistono ancora le grandi feste con il liscio nella Riviera? Come no? Adesso il liscio si suona con i playback praticamente. Sì, non suonano, non suonano più dal vivo, vero? No, infatti ci avevo pensato andare a suonare il liscio. Per su due soldi. Quando uno dice vado a suonare il liscio, dice vado a fare mimo. Vado a fare il mimo. La comparsa. Peccato. Sì. Peccato, perché molti musicisti che sono venuti qua hanno imparato a suonare facendo un po' di liscio. Diciamo che quelli sì, sì, con la fisarmonica. Sì, abbiamo sì, avuto il nostro ex batterista, ha frequentato una band di liscio per un anno e mezzo e ci ha raccontato tutti i retroscena di questo mondo. Peste e corna. E lui alla fine era quello che si faceva più il mazzo, perché lui realmente era costretto a suonare stando a pari con il pezzo che gli usciva dalla spia. Ah, mentre gli altri possono suonare ad ampli spento e tanto lui, non succede niente, dovendo sbattere per forza il rumore arrivava e quindi doveva essere pari. Però mondo i tempi cambiano, vero? Ok, non cambiano qua però, perché adesso sentiamo un pezzo da disco però chiaramente. Certo. Saggio, che scaletta abbiamo scelto adesso? Che pezzo? La famosa traccia 11. Quella durissima. Quella durissima. Quella la sentiamo? Durissima. Sì, sì, da subito. Sì, sì. Ciao Pachi. No! Questa era la traccia numero 11 fatta al Temptation dei Sinful Era, presenti questa sera nei nostri studi, Maurizio. Sì, abbiamo detto chiaramente che è un pezzo molto duro, volutamente molto duro. Ma all'inizio duro. Sì, poi... sì, poi si è un po' stemperato, vero? E il batterista si è comportato bene in questo pezzo. Ah, in questo pezzo si è comportato bene. Una mitraglia bene. Al posto delle mani. E anche dei piedi, perché qui c'è il pezzo di piedi più veloce di tutto l'album. Arriva a 200 bpm di doppia cassa. Perfetto. Solo per un attimo, ma perché proprio deve manifestare il momento. È una tentazione, esatto, praticamente. Un altro momento il tema di è rabbia. La tentazione. Il tema è la tentazione, perché qui, e questa qui viene subito dopo New Love. Esatto. Quindi uno dopo un pezzo così calmo dice: oh, finalmente è tutto a posto. No, è pieno. No, non è così. Non è così, perché a questo punto il personaggio si rende conto di che dopo essere stato vittima di una cosa del genere rischia, e potenzialmente rischia di essere lui il carnefice, cioè a sua volta ha una tentazione di tradimento nei confronti della nuova persona che ha trovato. E quindi lui ha una grossa crisi personale, perché dice: cavolo, cioè, mi è successa sta cosa, ho vissuto tutte queste robe brutte, poi io in prima persona rischio di fare una cosa del genere. Diventa un Dr. Jack e Mr. Hyde, praticamente. Esatto, sì. Esatto. Questo serve per far capire che anche la persona più tranquilla, più che si crede più retta, più sicura di sé in queste cose, può avere un attimo di debolezza. Può esplodere. La differenza poi sta nel fatto di come reagiamo a questo momento. Esatto. E quindi qui il personaggio decide di appartarsi per evitare di... Nella fattispecie decide di evitare di vedere questa persona che l'aveva tentato, evitare la tentazione, esatto. Ma decide anche di lasciare la persona con cui stava, perché si rende conto di non essere pronto, di essere un pericolo per l'altro, e quindi fa un atto di responsabilità. Mentre c'è chi di fronte alla tentazione mette un piede da una scarpa o nell'altra, lui decide di rimanere senza scarpe, vogliamo dirlo così. Vince sempre il grillo parlante. Pur di non fare del male. Quindi praticamente te. Vince sempre il grillo parlante. E giustamente Sergio diceva che nell'insieme del pezzo, nella costruzione del pezzo, si parte molto duro e poi si rallenta. Certo, è anche l'idea che tu avevi detto adesso, praticamente. Se vediamo anche la prima parola, inizia con stupid. Cioè lui si infama. Stupid in romagnolo. Stupid, esatto. Lui si insulta proprio il personaggio. È un momento proprio che si guarda allo specchio e dice: ma come sei messo? Ma perché? Come è potuto accadere a te? Con tutte le volte che ti sei detto: ah, io queste cose non le farò mai, io mai, io di qua e di là, le ho subite troppe, invece... Poi si vede che gli attimi di debolezza possiamo averli tutti. Dopo ovviamente si rabbonisce col tempo, perché entra in questa fase dove dice, dove fa l'atto di responsabilità e decide di allontanarsi. Infatti il pezzo dice: un giorno ritornerò e... non mi ricordo bene. Troverò... Io, ma... preparatissimi sui testi. No, I cannot deny the temptation inside, but one day I will find my own way. Cioè, nel senso che un giorno troverà la sua strada, nel senso un giorno riuscirà ad avere la forza e la sicurezza per non cedere più a questo tipo di tentazione e potrà ricominciare. Però è una sfida che adesso non riesce ad affrontare, insomma. Sì, dobbiamo dire una cosa, cari ascoltatori: Baldo i testi li aveva scritti in italiano, vero? Quasi tutti. Sì. Poi Laila, li aveva tradotti in inglese, e poi insomma li avete sistemati praticamente. Esatto, sì. Adattati poi anche alla musica, costruito proprio le rime, tutto quanto. Insomma. Sì, perché nasceva da una storia narrata, quindi comunque dividerla in io non avendo mai scritto in testi né in inglese, ma neanche in italiano. Neanche in italiano. La prima volta in assoluto. Sì, era la prima volta in assoluto. Fatica a saper scrivere, quindi. Quindi è stato un lavoro molto lungo. È stato, posso dire, più difficile che scrivere le parti melodiche. Perché io quando ho scritto i testi avevo già completato il CD a livello armonico. Quindi non c'era. A quel punto rimaneva la parte più lunga. Bisognava adattarsi alla musica, più che far crescere le cose insieme. E quindi il supporto di Laura è stato fondamentale. Stato fondamentale. Perché ritmarle in inglese, magari scriverle, tradurle, sei stato capace. Ma l'idea di dargli l'inflessione, metterle in musica, tirar fuori i modi di dire, lo slang, perché a tradurlo accademicamente sei stato capace. Ma poi dargli un senso che non fosse compiuto nel ridicolo. Era necessario. A proposito, chi vi ha dato, se vi ha dato una mano, qualcuno nella registrazione del disco, un fonico, eccetera? No, una mano, non economicamente. No, beh, economicamente avete fatto tutto voi, chiaramente. È stato Roberto Priori, visto che abbiamo registrato nel suo studio a Bologna, e lui ci ha accompagnato per tutto il tempo della registrazione. Ti ha dato anche dei suggerimenti. Dei suggerimenti, perché lui, avendo grande esperienza, avendo fatto tanti gruppi che conosciamo, avendo suonato anche negli 883, esatto, no, la parentesi, sì, parentesi sopra. Diciamo che lo conoscevamo di fama perché aveva registrato tanti album di nostri amici, mm-hmm, e quindi ci siamo affidati a lui, siamo rimasti molto contenti perché, mm-hmm, oltre ad avere grande esperienza tecnica, ci siamo trovati molto bene a livello umano. Cioè, è stato persona, capace, sì, di metterci, un gran motivatore, esatto, molto... è stato capace di metterci a nostro agio, in questo particolare Leira e Laila che, perfetto, erano alla prima esperienza in assoluto. Sono state brave in studio, sì, sai, come voce cambia tutto, se, cioè, sei emozionata la voce poi è la prima cosa, non eri emozionata nel disco, quindi, assolutamente, no, o meglio, mi ha messo a mio agio, certo, ha fatto un'opera di motivazione notevole, poi anche nell'aiutarci a tirar fuori la parte vocale con l'aggressività o la dolcezza adeguata al brano, lui ha avuto un, sì, ruolo, perché, fondamentale. Ricordiamo, cari ascoltatori, questa essendo un'opera rock, possiamo dire che è un concept album, la voce varia rispetto alle melodie, rispetto, esatto, ai momenti del pezzo. Esatto, sì, certo, e magari della traccia. Un cantante che è abituato, esatto, anche quello con più esperienza, magari è abituato a cantare sempre in un determinato range o con un determinato pathos. Qui le canzoni tra una e l'altra differenziavano molto. È chiaro, è chiaro. E quindi è stato un super lavoro per lei. E avere una persona così carismatica, così di esperienza e con questa grande capacità umana è stato, sì, fondamentale. Mi ha indirizzato molto, molto. Poi per l'aiuto, ringraziamo Claudia cantante Saponi, degli Absinthe Aura, che è un gruppo, diciamo, nostro collega, con i nostri colleghi sempre per Logic in Logic. E che ci ha aiutato nella registrazione dei cori, siccome noi non siamo cantanti, siamo andati da lei, che è la mia insegnante di canto. Età. Io, Laila e Pixel siamo andati, cioè, lì, il bassista, e per registrare tutte quelle che sono le parti di contorno, quindi ci ha aiutato sia nella pronuncia che fisicamente ci ha registrato. Non è stato un lavoro semplice. E poi noi, sì, abbiamo portato le tracce allo studio per il mixaggio definitivo. Quindi, per ribadire per l'ennesima volta che fare un disco non è una scampagnata, no, vera e propria. Poi ringrazio anche JT, il bassista sempre di Absinthe Aura, perché ci ha supportato nella registrazione del basso. Perché anche per Ema, anche per Pixel, era la prima esperienza e quindi abbiamo pensato di avere un qualcuno, amico, sì, una persona di esperienza. Certo. Ed essendo poi lui un bassista, sapeva tutti i trucchi per registrare al meglio questo strumento. Difatti, la critica, come abbiamo detto in precedenza, iniziando il programma, la critica ha promosso totalmente il disco, perché probabilmente anche da questo punto di vista tecnico è riuscito bene. È, sì, importante. A livello di suoni è riuscito veramente bene. Qui a livello di suoni è riuscito perfettamente. Per rispetto alle nostre preproduzioni, diciamo, i promo che ci eravamo fatti a casa, chiaramente, sì, è una bella differenza. Però, sì, sì, ma al di là del materiale da soldi che uno può avere, c'è comunque l'esperienza, il saper mettere l'effetto giusto nel punto giusto, l'equalizzare, incastrare tutte le frequenze per far uscire bene la muraglia, ma senza che diventi un mascherone. Mantenendo, cioè, comunque un'idea di sound ben definita, esatto, senza, diciamo, mettere l'idea del fonico sopra l'idea di sound di base della band. Noi avevamo in mente un certo sound, soprattutto Fabio, no? Rispecchia molto quello che aveva lui in mente, facendo tornare i conti, diciamo. Quindi è stato un buon lavoro anche da... Perché non è semplice, ci sono tanti gruppi o presunti tali che girano intorno a questo universo. Ne sono parecchi, sì, sì, in Italia. C'è un grosso giro dal punto di vista, esatto, musicale. Però bisogna essere differenti, e voi siete stati differenti, secondo, sì, me. Noi almeno tentare di farlo. La scelta dello studio è stata dettata anche dal fatto che tutti i CD che avevamo sentito usciti da questo studio suonavano in maniera diversa. E quello è importante. Che è strano, perché comunque a parità di genere uno dice, senti la mano del fonico molte, certo, volte. Per fare quest'album noi avevamo bisogno di una libertà totale, quindi anche... E poi volevamo non essere simili ad altri. Chiaro. Ispirati, ma non simili. Giusto, ispirati, e ma non simili. E quindi una persona che ci mettesse a disposizione la sua esperienza, ma che tirasse fuori il suono che noi gli chiedevamo. Chiaro. Noi gli portavamo degli esempi e lui, muovendo i microfoni, magari facendo... equalizzando in una certa maniera piuttosto che in un'altra, riusciva a tirar fuori il nostro suono, sia anche a livello di batteria, la, perfetto, ricerca di un tipo di rullante piuttosto che un altro. È stata una cosa molto lunga. Adesso tiriamo fuori ancora del suono, sì, che cosa sentiamo adesso? Vi faremmo sentire una novità, una cosa che non c'è nel disco, facciamo, oppure facciamo, diciamo, il brano che avete appena sentito nel disco, ve lo facciamo super durissima, ecco, una versione alternativa, esatto, assolutamente alternativa che non c'entra assolutamente niente con quella del disco, quindi è una sfida, una possiamo sorpresa, dire questa. Esatto. Okay. Lo facciamo adesso, per così gli ascoltatori si ricordano com'era il brano inizialmente, sennò esattamente. È la memoria è quella che è la vecchiaia, avanza anche per Filippo. Una vecchiaia di Filippo. Una vecchiaia di 22 anni. Pensi la mia. Devi pensare alla mia. Radio Veneto, Rock Wave Live. Questa tastiera suonata a mo' di tromba. Di tromba, esatto. Vero Filippo? Sì, sì, è stata una scelta un po' azzardata, ma... E soprattutto com'è cambiato il brano da prima adesso. Dal CD, dal disco ad adesso. La versione country è un po'... Sì, una versione country, ma bella, affascinante, molto interessante. A me è piaciuto moltissimo, anche a Sergio. Volevo proporre appunto questo cambiamento. Poi l'impasto vocale, la chitarra di Baldo e la tromba di Filippo. No, non sono un trombettista, vorrei... La tromba, per modo di dire, il suono della tromba. Che è talmente realistica che potrebbe sembrare... Sì, una tromba proprio gezzata anche. Sì, sì, sì, sì. Leggermente. Ascoltiamo anche... Io soprattutto ultimamente mi sto avvicinando molto al jazz, sonorità un po' più blues... Ma anche la voce, voce più sua più è blu. Sì, esatto, esatto, più graffiata, del... più... Secondo me sì. Tra neanche un anno cambiate genere. Ho parlato di liscio, di liscio, di jazz, di 883. Può darsi. Non lo escludiamo, non lo escludo per niente. Mai. Beh, una bella cosa, una bella... Ma l'idea di questa versione è per questa sera oppure... No, no, è stato... Sì, diciamo, è stato nato proprio per le serate in radio come questa. Mm-hmm. E quindi abbiamo, ci è piaciuto anche riproporla anche qua, perché ormai ci ogni tanto lo facciamo anche dal vivo. Anche sì. Live, sì. Ci gasa un sacco. Abbiamo, dopo sì. Averla fatta in radio la prima volta, l'abbiamo provata dal vivo come scommessa. E è piaciuta tantissimo. perché non farla di nuovo. E il bassista e il batterista come si comportano? Questo, qui in il bassista pezzo? Va a prendersi una birra di ci solito. Il batterista... guardare batterista fa qualche ritmica sotto sempre sullo qualche stile. Percussione esatto. Leggera leggera bella bella molto interessante sì, sì. Poi siccome il pubblico si divide sempre in due fazioni cioè quello che ama questo brano in modalità elettrica quindi di solito li facciamo tutte e due esatto, per accontentare tutti esatto come questo è un po' il perché piso, questo cioè. È il brano più che piace di più dal vivo ai nostri sostenitori è quindi proprio da baracca come è quello da baracca sì, sì, sì. Quindi gli è piaciuto acustico, come dicono, beh, adesso vogliamo la cattiveria, quindi fuori anche l'altra. No, è interessante, come giustamente diceva Sergio, un futuro può darsi. Ah sì, sì, infatti, guarda, questo è il brano che mi ha spinto a pensare, ma potremmo fare anche più acustici. Eh sì, può darsi, nel prossimo disco che farete, spero di sì, chiaramente, ci potrà essere un piccolo spazio per un pezzo acustico, totalmente acustico. Ah, come no? Con la band fatta a 6, certo. Chiaramente. Usufruendo anche del bassista, non mandandolo a bere una birra. Poverino. Bene, adesso in scaletta dovremmo forse avere un altro pezzo. Sergio, cosa dici? No, mi sbaglio? Sì, sì, sì. La traccia numero 7. Lo sentiamo, cosa dici? Ecco, questa l'abbiamo, è quella che abbiamo suonato prima, My esatto, Friend. Esattamente. E quindi adesso la sentiamo in versione elettrica. La versione elettrica, leggermente elettrica, dai. Leggermente. Leggermente. Poco poco. 23:50 minuti, questa era My Friend, la traccia numero 7 del disco di Sinful Ira. Tra l'altro ricordiamo anche sinfulira.com, giusto? Esatto. Dove ci sono spiegate tutte le canzoni poi. Esatto. Come stai facendo tu questa sera? Già, perché per noi era molto importante che la gente avesse un riferimento, un'idea della storia. Per chi magari le abbiamo scritte sia in italiano che in inglese le spiegazioni. Quindi perché pensavo che le aveste messe in inglese perché magari avevate già dei contatti, sai mai, con l'estero qualcosa? Beh, sì, perché abbiamo dei sostenitori dall'estero, perché un po' grazie all'etichetta, un po' grazie all'altra band in cui milito, che è già più conosciuta che si chiamano Ancient Bards, Power Metal Sinfonico. Power Metal Sinfonico. Power Metal Sinfonico. Interessante. C'è una sfaccettatura, una serie di... Ma il power metal che universo è enorme. È enorme, sì. Esattamente. Universo fatto di doppia cassa. Di fatto di doppio pedale a velocità incredibili, a soli fulminei. Però tanta questione anche acustica. Ma hanno tutte le facce da bravi ragazzi. Sì, assolutamente bravi ragazzi. Sì, dopo ti schitarrano addosso di tutto. Così. Schitarrare che scatarrare. Vabbè. Filo! Questa era veramente brutta. In effetti ho cercato di stare attento. Te la sei cercato questa. Mentre lo dicevo. Mi sai male. Sì, ma a proposito del pezzo che abbiamo sentito prima, Filo diceva giustamente, mentre il pezzo andava, c'erano delle macchie di prog. Soprattutto questa tua velocità con la tastiera erano macchie di prog. Assolutamente prog. Sintetizzatore, sì, sì. In questo disco, in questo brano soprattutto, molto, molto uso di sintetizzatori. Sì, come mai hai inciso più te che gli altri? Hai spinto te il pezzo più gli altri? Più Baldo, bassista, batterista? Sulla sonorità, questo vuol dire. Dimmi, Baldo. Per questo brano è stato l'unico dove non avevo le idee chiarissime. L'ha preso lui praticamente. Fai un po' come ti pare, esatto. Io non so cosa metterci. In questo brano gli ho detto fa un po' come ti pare. Esatto. Perché invece per gli altri brani invece alcune cose erano molto definite, cioè qui avrei bisogno di una parte malinconica con degli archi, dei cori, quindi aveva già stabilito Baldo cosa voleva. Cioè, sì, le note. Cioè, c'erano gli accordi di fondo, lui poteva scegliere come fare l'arpeggio di sopra, però se fosse un pianoforte, un violino, un coro. Alcune cose erano molto libere, ad esempio anche Revenge of Mind, quella più araba diciamo, più orientaleggiante. Mi sono sbizzarrito molto con i suoni, con in altri invece ad esempio True Lies lì era già abbastanza diciamo definita l'atmosfera, quindi io semplicemente ho fatto lo sporco lavoro di far tornare i conti, non arrangiare. Qual è stato il pezzo più difficile, Baldo, da immedesimare, da costruire? Non il testo, musicalmente. Il testo abbiamo capito che hai avuto un iter nel tempo. Musicalmente è stato il pezzo più impegnativo. Destiny, l'ultimo praticamente. L'ultimo perché innanzitutto è anche più ben riuscito, che secondo giustamente diceva Filippo, è il compendio di tutto quanto. È venuto voluto creare un medley di tutti gli altri brani. Infatti qui dentro ci sono praticamente i riff di tutte le altre tracce, alcuni mascherati, alcuni in tonalità differenti, alcuni con tempi un po' diversi. Alcuni temi ritornano proprio. Perché appunto, essendo il momento in cui il personaggio riflette lontano da tutto e da tutti, è giusto che, siccome nella sua mente ripercorre tutte le fasi, tutto episodi, il disco, è un turbinio di emozioni, mettersi dentro anche i riff che richiamano agli altri brani mi sembrava logico. Quindi diciamo che farli andare d'accordo, trovare una tonalità in cui stessero bene tutti e che andasse bene anche per il cantato, non è stato facile. Infatti, è stato difficile. Non capiamo come è successa questa cosa. E poi anche perché questo brano, e questo lo dico per la prima volta, non credo che lo sappia nessuno, questo brano è stato scritto a 2 mesi dalla registrazione, mentre gli altri erano già stati definiti, cioè la prima volta che noi abbiamo presentato l'album, che l'abbiamo suonato, o comunque i nostri promo che avevamo fatto a casa, erano di 11 pezzi, cioè finiva il disco con Fatal Temptation, però finirlo così, che finiva in un certo senso male, un po' mi dispiaceva. Un momento di speranza gli hai dato, anche se non si chiama speranza, finale, anche se però si comunque chiama... lui lascia la persona amata, certo, se ne va, sì, e quindi so. Comunque so però, come dire, come... però c'è un piccola speranza, sì, c'è un finale sospeso che non ti dice effettivamente com'è andata a finire la questione. Con quindi Destiny, una specie di thriller praticamente. Sì, con Destiny abbiamo voluto fare mettere in musica anche il momento riflessivo finale, il momento in cui ha partato, per far capire ancora di più che la speranza ci sarà, cioè che finisce, per dare un finale migliore all'album. Sì, ma l'ultimo pezzo, un pezzo che farete adesso mi pare dal vivo, per concludere, un pezzo interessante, giustamente tu hai detto, è il compendio, anche musicalmente interessante, complesso, per tutte le diverse facce che hai voluto metterci dentro. anche perché e poi volutamente il pezzo finisce con lo stesso arpeggio di chitarra in sottofondo dell'intro. È vero. Perché rappresenta un ciclo, perché questa storia potrebbe benissimo ricominciare da capo, come, no, come virare verso altri. Madonna, è interessantissimo questo disco, io lo comprerei. Io lo comprerei. Eh? Pagato. Visto che sono le 12:24:56, cioè 23:56 praticamente, quasi le 24. Ne ha dette 3. Ne ha detto 3. Vuoi fare? Diamo i numeri. Ci sono le ore legali, ho sbagliato chiaramente. Possiamo fare una conclusione, nel senso, potresti dire il sito, potresti dire dove si può trovare il disco, se avete dei concerti, eccetera. Ah, ok. Allora, allora il sito www.sinfulira.com, come avevo detto prima, e abbiamo la nostra pagina Facebook, quindi basta cercare Sinfulira. Con la Y, Sinful, è staccato Ira. Se parliamo tutti insieme non capisci niente. No, comunque, comunque dal sito ci sono i collegamenti a tutte le varie pagine. Abbiamo anche la pagina Twitter, la pagina Facebook e abbiamo la mail info@sinfulira.com, dove è possibile ordinare, contattandoci direttamente, il disco. Questo è positivo, sì, sì. Li abbiamo già spediti all'estero. Bene. Tranquillamente. Ce ne sono già due che hanno superato l'oceano. Sono il collegamento su YouTube non funziona. Fantastico. Il collegamento su YouTube non funziona. Davvero? Benissimo. No, ma è fatto apposta. È fatto apposta. Era uno scherzo. Poi all'interno del sito si possono vedere i nostri video. Su YouTube, adesso, a parte il collegamento che non funziona, comunque su YouTube, cercando Sinfulira, ci sono parecchi video nostri, sia dal vivo che quattro brani ascoltabili di quest'album. Nel canale della nostra etichetta. Nel canale della nostra etichetta. E quindi è abbastanza facile trovarci. E per chi volesse comprare il CD si può rivolgere tramite mail o scrivendo alla pagina Facebook, tanto siamo sempre noi che rispondiamo. Abbiamo PayPal, PostePay, abbiamo tutte le modalità possibili, i viaggiatori inclusi. Esatto. Spediamo ovunque in tutto il mondo, quindi no problem. E basta, dai, e basta. Beh, allora concludiamo con l'ultimo pezzo, assolutamente dal vivo. Riusciamo a rifare anche quello? Sì, facciamo esattamente, possiamo fare così. Vi ricordate quel pezzo che motivi... È My Friend. Possiamo fare, se volete, un ritornello. Questa la dedichiamo ai nostri ascoltatori, ai nostri amici, giustamente. Allora terminiamo questi due pezzi, salutiamo così praticamente. Grazie a Sergio Bortolani, è stato proprio lanciato, è riuscito a sistemare tutte le cose in modo splendido. Mi sta guardando male? No, perché lui la spara grossa. Io non faccio non niente. Non è molto d'accordo. Non faccio niente. Domani sì, sera alle ore 21 c'è Agostino. Ieri? Domani sera? Chiara. Il gruppo. Sì, esatto. Chiara, sì, esatto. Ieri. Sì, vabbè, esatto. È un duo vabbè. Praticamente. Ok. My Friend, allora. Okay. No, da cosa partiamo? My Friend? No, lo fate tutti e due assieme, uno dietro l'altro. Facciamo My Friend, facciamo quel che volete, dai. Buonanotte a tutti e grazie. Ciao, grazie. Ciao.